24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Raffaella Calandra a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In primo piano il vertice europeo e le tensioni tra Berlino e Parigi, i nuovi scontri di Atene e il primo via libera ai fondi comunitari per il sisma dell'Emilia. In apertura dunque andiamo a Bruxelles, dove in un clima di tensione si è aperto il Consiglio d'Europa. Protagonista lo scontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande su vigilanza bancaria e veto sui bilanci nazionali. Da Bruxelles, Sergio Nava. Buongiorno dall'area arrivi del Consiglio europeo a Bruxelles, dove i 27 leader comunitari stanno giungendo alla spicciolata. Siamo qui per raccontarvi la due giorni di summit, due giorni cominciata con le dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha dettato in mattinata l'agenda del vertice con il discorso al Bundestag, l'opportunità per lei di entrare nel solco della linea tracciata nei giorni scorsi dal ministro delle finanze Schäuble, rafforzandola. La Germania chiede l'istituzione di un supercommissario europeo agli affari economici con potere di veto sui bilanci nazionali, una novità decisamente rivoluzionaria che rappresenta la più importante richiesta tedesca in agenda al summit. La mossa di Berlino appare come necessario contrappeso alle richieste francesi, italiane e spagnole di avanzamento nel progetto di unione bancaria, con una vigilanza comune sugli istituti di credito che in futuro dovrebbe essere affidata alla Banca Centrale Europea. Parigi, Roma e Madrid spingono per un'approvazione in tempi rapidi del dossier. Berlino non ha fretta e chiede anzi di passare alla ricapitalizzazione diretta degli istituti di credito in difficoltà da parte del Fondo Salva Stati solo in una fase successiva, quando la vigilanza bancaria sarà ormai avviata e rodata. Sebbene decisioni definitive su entrambi i dossier non siano attesi per la fine di questo vertice, è probabile che questo summit spianerà la strada a futuri compromessi da raggiungere e chiudere entro fine 2012. Angela Merkel e François Hollande si sono sfidati nelle ultime ore a colpi di dichiarazioni, ciascuno portando avanti il proprio obiettivo prima di incontrarsi a livello bilaterale per provare ad appianare le divergenze. Certamente l'uscita tedesca non ha conciliato gli animi, con un Hollande visibilmente irritato al suo arrivo al summit, impegnato a rintuzzare le dichiarazioni della Merkel, bollandole come uscite pre-elettorali. Ma non sono solo i dossier a medio termine ad animare la due giorni di summit. Sullo sfondo delle violente proteste in Grecia, i cui echi sono giunti fino al palazzo Justus Lipsius, sede del vertice, ci si aspetta che i leader comunitari sottoscrivano una dichiarazione a sostegno di Atene e degli sforzi che il governo ellenico sta compiendo per completare la politica di austerità. Per il momento la questione greca appare più defilata rispetto agli altri temi in agenda, in attesa che la troika internazionale concluda i negoziati nei prossimi giorni, definendo i nuovi tagli in grado di sbloccare l'ennesima tranche di aiuti internazionali. Così è la Spagna a tenere banco tra i paesi attualmente sotto osservazione. Madrid tentenna ancora sulla richiesta di un salvataggio europeo, ma deve cominciare a fornire indicazioni concrete non solo ai partner comunitari ma anche ai mercati, che negli ultimi giorni hanno allentato sì la pressione ma si interrogano ora su quando la Spagna chiederà di andare sotto l'ombrello della protezione comunitaria. Il premier iberico Mariano Rajoy resta una sfinge con un'incertezza di fondo che non lo connota certamente come un leader decisionista. La stampa spagnola rivela anzi che proprio Rajoy ha avuto un incontro mercoledì con la cancelliera tedesca Merkel a Bucarest e starebbe cercando di ottenere tutte le garanzie necessarie per un salvataggio soft. In primis, Rajoy chiederebbe di conoscere esattamente le condizioni cui verrebbe sottoposta Madrid nel caso di un ricorso al fondo salvastati e allo scudo antispread. In secondo luogo, pretenderebbe garanzie sull'unione bancaria e la futura ricapitalizzazione delle banche in difficoltà. I 27, ma soprattutto i paesi massimi europei, dovranno fornire una sintesi a tutte le questioni sul tavolo che vi abbiamo riassunto. L'obiettivo è chiudere a dicembre, sperando che a novembre si raggiunga l'accordo sul prossimo bilancio settennale europeo. Di lavoro da fare, insomma, ne resta ancora molto. Da Bruxelles è tutto. La giornata della cancelliera Angela Merkel era iniziata al Bundestag di Berlino, dove Peer Steinbrück, candidato dell'SPD alle federali del 2013, l'ha accusata di aver fatto mobbing su Atene. È stato un errore fare mobbing sulla Grecia con la sua coalizione di governo. Attacca l'ex ministro delle finanze Peer Steinbrück, rivolgendosi alla cancelliera. La Germania, dice, non è mai stata isolata in Europa come oggi. Fresco di nomina al ruolo di sfidante ufficiale dell'opposizione alle prossime elezioni, Steinbrück porta la campagna elettorale in Parlamento, dove Merkel ha da poco rinnovato l'auspicio che la Grecia resti nell'euro. Ich wünsche mir dass Griechenland im Euroraum bleibt. Mano tesa della cancelliera ai paesi in difficoltà, accompagnata dalla proposta di un nuovo strumento di solidarietà tra stati che suggerisce potrebbe essere finanziata con la Tobin Tax. Ma l'elemento politico più rilevante sta nel sostegno al supercommissario ai bilanci, cui spetterebbe un effettivo diritto di ingerenza, rafforzerebbe così il ruolo politico dell'Unione. So che molti stati non sono ancora pronti, ha concluso Angela Merkel di fronte al Bundestag, ma questo non cambia il fatto che noi ci batteremo per questo risultato. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E a proposito di Atene, quella che si è chiusa nella capitale greca è stata una nuova giornata di scioperi, scontri e tensioni culminati nella morte di un manifestante. Un paese dunque di nuovo paralizzato, mentre il governo Samaras continua a discutere con la Troica europea sul programma di aggiustamento economico. Giornata di sciopero generale ad Atene, il terzo dall'inizio dell'anno, dove un uomo di 65 anni iscritto al sindacato comunista dei marittimi, il PAME, è morto di infarto durante gli scontri tra manifestanti e polizia. Non c'erano ferite sul corpo, si legge in un comunicato rilasciato dall'ospedale di Atene dove era stato ricoverato. Una giornata di alta tensione che ha visto 30.000 persone scendere in piazza contro le nuove misure di austerità per 13,5 miliardi di euro che il governo ellenico sta concordando con la Troica per ottenere i 31 miliardi di euro per la prima tranche di aiuti del secondo piano di finanziamenti. Il problema è che sul licenziamento dei 15.000 dipendenti pubblici e la riduzione delle indennità di licenziamento, i due partiti di sinistra che sostengono il governo greco di Anthonis Samaras si sono opposti, mentre l'opposizione di sinistra radicale Syriza parla apertamente della possibilità di uscita dall'euro, dichiarando default e svalutando la moneta sullo stile argentino del 2001 per 75% del valore. Un'ipotesi che terrorizza i governi europei riuniti a Bruxelles e soprattutto il cancelliere tedesco Angela Merkel per l'eventuale effetto domino sugli altri paesi periferici. Vittorio Darold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Situazione delicata anche in Ungheria, dove i salari reali stanno perdendo valore. Nel mese di agosto, secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Magiaro, sono risultati più bassi del 4,6% rispetto allo stesso mese del 2011. Si tratta del peggior rallentamento da aprile, mentre l'inflazione tocca il 6%. E siamo alle borse. Dopo la seduta con lo spread ai minimi da marzo a Piazza Affari, quella di ieri è stata una giornata fiacca per quasi tutte le piazze europee. La scure di Moody's abbatte Monte dei Paschi anche a Piazza Affari. L'agenzia americana ha annunciato un doppio taglio al rating dell'istituto senese, ritenendo probabile il ricorso a un nuovo sostegno patrimoniale per la banca oltre al 1,5 miliardi in arrivo dai cosiddetti Monty Bond. In borsa il titolo ha così perso il 6,4%, battuta dal resto anche per Salvatore Ferragamo, che ha lasciato sul terreno oltre il 4%. Per alcune case d'affari, tra cui Mediobanca, il titolo ha corso molto dalla quotazione avvenuta a giugno 2011 e il rallentamento dei consumi sui mercati asiatici potrebbe avere un effetto negativo sul giro d'affari del gruppo della moda. Da Radio Corpo e Radio 24, Andrea Fontana. Aveva chiesto una somma molto cospicua e ripetutamente. Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta che ha portato alle dimissioni del commissario europeo alla salute, John Dalli, dopo presunte pressioni da parte di aziende del tabacco. Secondo il direttore generale del servizio antifrode, Giovanni Kessler, non è stato però assolutamente intaccato il processo decisionale sulla direttiva tabacco. E torniamo a parlare di terremoto in Italia, stavolta perché l'Unione Europea sblocca i primi fondi a favore delle regioni colpite dal sisma di maggio. Uno stanziamento da 670 milioni è stato infatti approvato dalla Commissione Bilancio del Parlamento Europeo. Ora però dovrà esserci la conferma dell'Aula e del Consiglio. E una prima tranche di aiuti all'Emilia-Romagna arriverà presto anche dalle donazioni raccolte via SMS. Lo anticipa il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, intervistato nella rubrica A ciascuno il suo. Io spero che all'esito di questa giornata ci diano il via libera per far partire i progetti e una volta ricevuto il via libera cominceremo ad anticipare il 30% delle somme e poi mano a mano che ci saranno gli stati di avanzamento delle opere verranno corrisposte in modo tale che questa sarà anche un'ulteriore garanzia nei confronti dei donatori che i soldi verranno erogati vedendo passo passo la realizzazione delle opere. delle opere. Verranno esaminati per la regione Emilia-Romagna 27 progetti, che sono quelli che nelle previsioni della regione assorbiranno i 14 milioni. Faremo i provvedimenti per assegnare la prima tranche del 30% delle somme alle singole regioni che potranno avviare i lavori. E da quel momento ci aspettiamo noi tutti che i lavori poi inizino effettivamente. Giro di vite di Bruxelles su energie rinnovabili e qualità del carburante. L'indicazione dell'Unione Europea è di limitare la produzione dei carburanti derivanti da colture alimentari per favorire invece quella di biocarburanti sostenibili, estratti cioè da alghe, rifiuti. Insomma, i residui le cui emissioni di gas ad effetto serra non interferiscono con la produzione alimentare mondiale. Infine, una curiosità dolce. Un primo premio Nobel è stato già consegnato alla presidente dell'Eurocamera Martin Schulz, ma era una medaglia di cioccolato. Schulz sarà poi il 10 dicembre ad Oslo insieme ai presidenti Barroso e Van Rompuy per la cerimonia solenne di consegna della Nobel della Pace. E questa era l'ultima notizia di 24 ore in Europa. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.